Bianca Cerri, americanista, giornalista radiofonica, collaboratrice di siti web e media online come Reporter Associati, ci porta ancora una volta in giro per le carceri americane, un settore che Bianca conosce davvero molto bene. Infatti partecipa anche a un'associazione che è presente negli Stati Uniti, una piccola associazione, ma che si è data una missione davvero, davvero molto difficile, che è quella di sostenere i detenuti afroamericani che vivono, ahimè, ai bracci della morte. Quindi, se già i detenuti che vivono nei bracci della morte possono essere considerati dei detenuti in qualche modo ai quali i diritti sono negati ancora di più che agli altri detenuti in attesa della condanna a morte, bene, gli afroamericani sono tra questi quelli che veramente hanno i diritti meno espliciti di tutti. Questa volta Bianca Cerri con Hotel Connecticut ci porta nel Northern Correctional di quel paese, un carcere molto duro. Il Connecticut, tra l'altro, scrive Bianca Cerri, è uno degli stati dove più alta è la popolazione carceraria, che rappresenta bene il 7% dell'intera popolazione dello Stato. Bene, in questo Northern Correctional Prison del Connecticut vi sono 15.000 detenuti, la stragrande maggioranza dei quali tossicodipendenti o che da poco sono usciti dalla tossicodipendenza. Altissimo è l'incidenza dell'AIDS e del virus HIV e molti, purtroppo, moltissime sono le morti causate da inadeguate cure mediche. Questo viene infatti denunciato da un'associazione per i diritti umani che si batte per la salvaguardia dei diritti minimi dei detenuti nelle carceri americane, che è l'ACLU, che è l'Associazione per i diritti e le libertà civili. Insomma, il Connecticut, che pur essendo uno Stato che dal 1976 non applica più la pena di morte, pur non avendola abolita, diciamo, dalle sue procedure e dalla sua Costituzione, sta investendo molto in questo periodo per cercare di migliorare le condizioni dei detenuti. Come dice Bianca Cerri alla fine, speriamo di poter dar loro ragione. Roberto Di Nunzio, Reporter Associati per Amisnet Radio.